Ave Maria, ragazzi e ragazze carissimi, e ben ritrovati a tutti sulle frequenze di Radio Buon Consiglio per una nuova puntata della trasmissione Spazio Giovani. Chi vi parla come sempre è Don Leonardo Maria Pompei. Oggi, con l'aiuto del Signore, vorrei aprire con voi un nuovo capitolo, a mio avviso molto importante e speriamo anche molto utile per la nostra vita giovanile. Un tema che risuona un pochettino è il contenuto di quelle che sono state le letture di domenica scorsa. Sicuramente tutti voi siete stati a messa domenica scorsa. Se ricordate, il Vangelo ci presentava l'episodio del giovane ricco, ecco, mentre la prima lettura ci ricordava la sconcertante e straordinaria, insomma, esperienza di Salomone che antepose la conoscenza della sapienza ad ogni bene creato, a differenza del giovane ricco che, come ricorderete, a causa dell'attaccamento disordinato ai beni di questo mondo, pensate che si lasciò scappare la chance di poter essere discepolo di Gesù quando lui era su questa terra, forse, magari, chi lo sa, anche suo apostolo. E ricorderete che il giovane ricco si è presentato dinanzi al Signore dicendogli che voleva entrare nella vita, ecco, voleva ereditare la vita eterna e voleva essere fondamentalmente felice, no? Chiedere al Signore: senti, senti un po', ma che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? E fondamentalmente chiedergli: dice, senti un po', Signore mio, tu sei il Signore, tu sei Dio, dimmi cosa devo fare per essere felice fondamentalmente. E Gesù, se vi ricorderete, dà questa risposta secca, chiara e lapidaria: se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Comandamenti chiaramente che sono i 10 comandamenti. Di fatto poi, continuando il Vangelo di domenica scorsa, vi ricorderete che il Signore gliene cita alcuni, e se avete fatto attenzione, gliene cita alcuni tranne i primi tre. Perché non è un caso, no? Perché chiaramente poi i primi tre che riguardano Dio, Gesù voleva che il giovane ricco li seguisse in maniera eroica, quindi in maniera al di là, diciamo, dello stretto necessario e del comune, quindi gli cita gli altri comandamenti. Comunque, a prescindere da tutto, il cammino della vita è il cammino dei 10 comandamenti. Io su questo argomento vorrei intrattenermi un pochino con voi, appunto sui 10 comandamenti. Che rappresentano un po', a mio avviso, per certi aspetti, uno scoglio oppure un terreno che va sgomberato da non pochi equivoci e da non pochi problemi, insomma, che per la verità anch'io quando ero giovane avevo nei confronti dei comandamenti, no? Soprattutto nei confronti di alcuni. E quindi desideravo intrattenermi con voi per un certo periodo di tempo, quanto il Signore vorrà, appunto sul tema dei 10 comandamenti, chiaramente avendo un taglio, dato che stiamo facendo una catechesi giovanile, un taglio particolarmente adatto alla realtà giovanile. Ecco, perché se io dovessi chiedere, ma ragazzi, provate un attimo a dirmi, ammesso che vi ricordiate tutti i 10 comandamenti, che ovviamente bisogna conoscere, no? Ma se io dicessi, cosa significa non avrai altro Dio all'infuori di me? Il primo comandamento di fatto è formulato con una premessa al positivo: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei di fronte a me o altro Dio all'infuori di me. Io mi dovessi chiedere, ragazzi, mi dite un po' di peccati contro questo comandamento, cioè come faccio a trasgredire questo comandamento? Così sul quinto comandamento dice, vabbè, non uccidere, non ho mai ammazzato nessuno, quindi se io non ho mai commesso omicidio posso stare tranquillo, non devo andarmi a confessare. Ecco, in parte sono queste le domande che io lo vedo, insomma, anche un pochino per esperienza personale, a contatto con i ragazzi, e in parte poi c'è anche un problema abbastanza frequente tra i giovani, e questo è uno dei problemi che ho avuto anch'io, che è, come dire, il fare pace con l'idea delle regole, cioè con il fatto che Dio abbia voluto darci delle regole. E più che altro poi andare a vedere bene a fondo anzitutto questo punto. Quindi Dio dà delle regole, quindi Dio vorrebbe in qualche modo limitarmi, Dio vorrebbe in qualche modo pormi dei paletti, Quindi è vero che se io mi avvicino troppo al Signore, poi la vita peggiora, perché dopo questo non si può fare, questo non si può fare, questo non si può fare, avrò delle regole, avrò delle fonti di inibizioni al mio percorso personale di crescita e di realizzazione, non potrò fare le mie esperienze, eccetera, eccetera. Ecco, è così? Anche io ricordo che quando ero giovane, con questi problemi, mi ci sono confrontato e scontrato. Sapete anche, ragazzi, che viviamo ancora, purtroppo, anche se pare timidamente vedersi qualche pallido segnale di cambiamento, specialmente da parte di qualche santo giovane, viviamo ancora in un contesto dove stiamo pagando l'eredità dei contesti storici sessantottini e post-sessantottini, scusatemi, no? Cioè quei tempi che probabilmente qualcuno di voi ha visto soltanto in televisione, in qualche spezzone di filmato d'epoca, giravano i cartelli vietato vietare, quindi nessuno può azzardarsi di dire questo si può fare, questo non si può fare, questo è bene, questo è male, sono io che decido quello che è bene e quello che è male. Bisogna vedere se questa cosa che qualcuno afferma essere male è male per me, e se non è male per me vuol dire che si può fare. Quindi ci sono dietro questo argomento, capite, che ruotano e gravitano tutte queste idee, diciamo così, di fondo, sottostanti, che però costituiscono il nucleo fondamentale e l'argomento punto, l'argomento chiave, scusate, su cui è necessario impostare una riflessione comune. E soprattutto dietro alcune di queste affermazioni si cela una certa immagine di Dio. Dio chi è? Allora, secondo me, fondamentalmente, diciamo proprio a titolo introduttorio, quindi prima ovviamente di cominciare a affrontare il tema, noi dobbiamo farci alcune domande. Molto francamente, ragazzi e ragazze carissimi. Allora, numero uno, qui bisogna sempre dire, partire un pochino all'origine. Voi sapete che siamo entrati nell'anno della fede. Giovedì scorso il Santo Padre Benedetto XVI ha detto: attenti ragazzi, che qui bisogna che per un anno fondamentalmente poniamo in discussione un punto chiave, ma io la fede ce l'ho o non ce l'ho? E nella lettera agli ebrei, che qualcuno dice che San Paolo non l'ha scritta, io sinceramente ho qualche dubbio, comunque fate vobis, c'è scritto proprio nel capitolo 11, quando inizia il lungo discorso sulla fede, c'è scritto: la fede è il fondamento delle cose che si sperano e la prova di quelle che non si vedono. Frase che sarebbe ampiamente da commentare, no? Ma anzitutto dice: se uno c'ha la fede, la fede richiede dei prerequisiti: credere anzitutto che Dio esiste e che ricompensa coloro che lo cercano. Quindi credere anzitutto che Dio esiste. Allora, ragazzi, io non voglio stimolarvi. Noi ci crediamo o non ci crediamo che Dio esiste? Cioè, che Dio esiste. Perché prima di parlare dei comandamenti, come vi accennavo, bisogna farsi due domande. Ma Dio esiste o non esiste? E se Dio esiste, chi è? Perché i comandamenti sono attribuiti a Dio. Noi conosciamo il testo dei comandamenti dal libro dell'Esodo. Il libro dell'Esodo, quando andate in chiesa e lo sentite leggere, al termine della lettura il lettore non dice parola di Francesco, di Nicola o di Benedetta, dice parola di Dio. Quindi ci credo veramente che Dio esiste o che Dio non esiste? Voi capite, e ricordo ciò che dissi in altri interventi, non mi ricordo su Spazio Giovane, su altre trasmissioni di Radio Buon Consiglio, che il fatto che Dio esista non è un fatto che può essere messo in discussione da una persona che sia intelligente, non da una persona che abbia fede, perché la Sacra Scrittura afferma in vari punti, due volte nei Salmi, una volta nel Libro della Sapienza, che chi nega l'esistenza di Dio è uno stupido, cioè uno stolto, quindi una persona che non fa funzionare il cervello, perché evidentemente, capite, ci sono tutta una serie di considerazioni razionali, quindi da fare semplicemente facendo funzionare il cervello, che attestano a favore della necessaria esistenza di qualcuno al di sopra dell'ordine creato e che in qualche modo lo presieda e lo governi. Ci possono fare innumerevoli esempi. Voi pensate per esempio all'orbita che la Terra compie ogni anno intorno al Sole. Voi sapete che quell'orbita è rigorosamente determinata nella traiettoria e nel tempo, 365 giorni, 6 ore, 21 minuti, non mi ricordo quanti, 20 minuti, 21 minuti e non mi ricordo quanti secondi, sono milioni di anni che la Terra fa sempre quel giro. Se voi leggete i libri per esempio del professor Antonino Zichichi, che affronta molto, con molta competenza queste tematiche, dice: sapete ragazzi che se poco poco la Terra per 2-3 anni, 4-5, sgarrasse di 1-2 secondi in questo giro che fa, tempo 5-6 anni andrebbe fuori orbita e noi ce l'andremo tutti quanti a far benedire, capite? La Terra comincerebbe a partire come un'astronave impazzita nello spazio e tempo pochi secondi sarebbe finita ogni forma di vita terrena. Questo non è mai successo. Chi ha messo, come dire, una legge fisica così ferrea, d'acciaio e precisa? Capite? La Terra è un pianeta materiale, quindi non ha un'intelligenza capace di autodarsi queste leggi qui. Chi l'ha fatto? Capite? Noi siamo tutti quanti esseri intelligenti. Voi sapete che adesso il mondo sta impazzendo, che è appena uscito l'iPhone 5, tutti appresso all'iPhone 5. Che, per carità, l'iPhone 5 è una cosa bella e se se ne fa buon uso utile. Nessuno quindi condanna l'iPhone 5, meno che mai io che sono molto appassionato anche di questi strumenti e spero di farne buon uso. Però quando incontro i miei ragazzi gli dico: senti un po', ti piace questo bel telefonino, bello, no? Allora io ti dico: guarda che questo si è fatto da solo, questo qui. Voi capite che chiunque ascoltasse una frase di questo genere direbbe: o Don Leonardo sta scherzando, o Don Leonardo chiamiamo il 113 e lo interniamo seduta stante, perché un apparecchio tanto sofisticato, tanto perfetto, tanto bello, con tutte quante le diavolerie che si inventano quelli della Apple, non soltanto che non si è fatto da solo, ma c'ha fior di capocce dietro, ingegneri che hanno fatto questo mondo e quell'altro, insomma, no? Per assemblare, per progettare e per produrre un gioiellino tecnologico di tanta perfezione. Non viene fatto da solo. Però voi pensate che l'iPhone possa essere messo a contatto, per esempio, a confronto col corpo umano, con la perfezione assoluta del corpo umano? Assolutamente no. E chi l'ha fatto il corpo umano? Capite? Con tutti i suoi meccanismi perfetti, con tutti quanti i suoi vasi sanguigni, il cuore, la circolazione, il cervello. Vabbè, adesso non possiamo stare qui a fare un corso di anatomia. Chi ha fatto questo? Ora, capite che ogni persona, un minimo ragionevole, intelligente, sa che non esiste nulla sulla Terra. Pensate voi che mi state ascoltando, dovunque vi troviate adesso, vi trovate in macchina, vi trovate in camera vostra, in cucina, date uno sguardo in giro, tutte le cose che voi vedete intorno a voi, qualcuno le ha fatte, non c'è niente che sia fatto da solo. Quindi la stanza dove state, i libri che vedete, il computer, state connessi al computer, la radio, l'abajur, il telefono, tutte queste cose non si sono fatte da sole, cioè dietro ogni cosa che noi vediamo c'è qualcuno che l'ha fatta. Quindi il cosmo, l'universo, che se uno studia un po' di astronomia è tanto grande e così perfetto, non può essersi fatto da solo. Voi pensate che alcuni scienziati hanno detto che, hanno fatto dei calcoli statistici, anche atei, hanno detto: guardate, è più facile che un gatto impazzito si metta ballando su un pianoforte a suonare la nona di Beethoven, piuttosto che l'universo si sia fatto da solo. Per cui anche se uno scienziato nega di avere una fede, come loro la chiamano, confessionale, cioè si professa agnostico o scettico, o anche in un certo senso ateo, nel senso di non aderente a nessuna religione propositiva, però comunque aderisce, se è intelligente, all'essere cosiddetto supremo, cioè qualcuno che abbia presieduto e che presieda l'ordine del cosmo tanto perfetto e tanto millimetricamente, diciamo così, ineccepibile, ecco, evoluto e straordinario. Ecco, quindi sul fatto che Dio esista, anche per chi non ci abbia una fede, non ci dovrebbero essere discussioni, a meno che uno non voglia fare attestazione di stupidità. Perché chi, come dire, dice, come ha fatto a succedere tutto questo? C'è stato il caso, ecco, il caso è l'argomento degli stupidi, cioè quando uno non sa cosa dire, ricorre al caso, ma vi ripeto, andatemi a trovare una sola cosa, tra tutte quelle che conoscete, fatemi una telefonata in diretta per favore, vi ricordo il numero, è 0825 444 391. Se qualcuno sa qualche cosa di bello, di complesso, che è imputabile al caso, chiami, così informa anche gli altri, e io chiudo subito la puntata e chiedo umilmente scuse. Non esiste, d'accordo? Ora, però, primo passaggio, vedere che esiste questo essere supremo, cioè questo essere supremo chi è, cosa fa? Ci sono state nel corso della storia, ragazzi, qui chi ha studiato filosofia sicuramente sarà un pochettino attrezzato, varie posizioni. Per esempio c'era una corrente filosofica che parlava fondamentalmente di un Dio, certamente, che presiede l'ordine creato, ma indifferente nei confronti del corso della vita del cosmo e degli uomini. Cioè, è l'ipotesi dei deisti, che praticamente identificavano Dio, così si chiamano i libri di filosofia, come una sorta di orologiaio. Cioè ha creato un meccanismo perfetto, pensando un po' come un orologio svizzero, però una volta che il meccanismo perfetto è stato realizzato, prodotto in fabbrica, gira le lancette e quello va avanti da solo. Quindi Dio praticamente ha fatto tutto bene, ma si disinteressa totalmente di tutto ciò che accade nel cosmo, quindi si trova al di sopra, al di là e senza nessun tipo di relazione con tutto ciò che riguardo gli enti creati si muove, diciamo così, intorno all'universo da lui creato. Va avanti da solo. Ovviamente a questa, diciamo così, ricostruzione, che è una fra le tante, si oppone invece il Dio rivelato, perché il Dio rivelato, capite tutti quanti, che non soltanto è colui che ha fatto tutte le cose, ma è anche colui che si prende cura di tutte le cose, e in particolare si prende cura dell'uomo, questo non è il Dio che conosciamo dalla rivelazione, con un'attenzione particolare al suo bene e alla sua felicità. Questo fin dai primissimi passi della Sacra Scrittura e della rivelazione noi lo possiamo cogliere e percepire. Quindi il nostro Dio è un Dio che esiste ed è un Dio che si prende cura del cosmo. D'accordo? Questo è il secondo passaggio. Quindi mi raccomando, ragazzi, stiamo nell'anno della fede, perché il problema dei comandamenti, secondo me, non è un problema morale. Quindi il problema morale c'è sui comandamenti, nel senso che devo vedere se li accetto e se li voglio mettere in pratica, questo è indubbio che c'è, ma è secondario, perché se io comprendo la ratio dei comandamenti, quindi perché Dio ha dato dei comandamenti e perché vuole che io li osservi, è molto più facile poi osservarli, molto più facile. Allora, abbiamo detto che Dio esiste, sì, questo dice la fede, e Dio si prende cura del cosmo, sì, e in particolare manifesta il suo amore sollecito verso i principi del cosmo, che sono le creature intelligenti, cioè gli uomini, sì. D'accordo? Allora, il discorso dei comandamenti è ovvio che va inserito dentro questa immagine di Dio. Quindi di un Dio che liberamente, quindi senza avere nessuna necessità, ha comunicato il suo essere e la sua vita fuori di sé attraverso gli atti creativi e al fine di partecipare la sua vita con la V maiuscola e la sua gioia al cosmo, sia come realtà non intelligente, sia soprattutto ai signori del cosmo, che sono gli esseri intelligenti, lo cura, lo conserva, lo mantiene in vita e lo ordina verso un fine buono. Ok? Ora, dentro questa prospettiva, perché Dio dice fai così e non fare colà? Adesso, a prescindere dal contenuto, domanda che io faccio a voi, dobbiamo chiedercele queste cose. Secondo voi a Dio gli interessa qualcosa che tu, non lo so, onori il padre e la madre oppure non lo onori. Gli cambia qualcosa a lui? Cioè, se io osservo o non osservo i comandamenti, cosa ne viene, perdonatemi l'espressione, un po' in tasca al Padre Eterno? Gli cambia qualcosa? È una domanda retorica, però è una domanda retorica che dobbiamo rispondere. Evidentemente no. Quindi, che io osservo tutti i comandamenti, io non osservo nessuno, la vita di Dio, eterna, felice, e in questo senso sì, al di sopra del mondo, perché il mondo certamente è curato da Dio, ed è da Lui, come dire, guardato con occhio benevolo e di riguardo. Però, e in questo senso c'era del vero anche nella teoria sbagliata, Dio si trova al di sopra del mondo, cioè Dio non è, come dire, in qualche modo condizionato o coinvolto nelle vicende mondane, assolutamente, d'accordo? Questo si chiama il panteismo o l'immanentismo, che sono altre posizioni eretiche di alcune correnti filosofiche, no? Considerano praticamente il mondo e il cosmo come una parte di Dio, e quindi in qualche modo ciò che avviene qua giù condizionerebbe e potrebbe in qualche modo anche alterare la vita intima di Dio. Questo è assolutamente falso. Cioè, Dio è quello che è eterno ed è sempre, come dire, immutabile e nella sua eterna gioia e felicità, a prescindere dal corso delle vicende temporali degli enti creati. Capite? Cioè, Dio poteva anche tranquillamente non creare l'universo, lo ha fatto per un atto libero, e a lui non sarebbe cambiato assolutamente nulla. Capite? Ecco. Quindi, il problema dei comandamenti non è un problema di Dio, è un problema nostro. Allora, o io capisco che la norma, la legge è da concepire dentro questa prospettiva, cioè dentro l'interno di una volontà di un Dio buono che ha cura di me e che mi cura appunto come io, come suo figlio, e che ha a cuore il mio bene. Io ogni tanto racconto l'esempio dei bambini pestiferi, come ero io quando ero piccolo, no? Cioè, se c'è qualche padre o qualche madre tra gli ascoltatori, o comunque ragazzi, proiettandovi voi di quando sarete padri e madri, no? Un bambino piccolo ha bisogno di essere guidato. Se un bambino piccolo mette la manina sui fornelli della cucina subito dopo che mamma ha cucinato la cena, se ci mette la mano sopra si ustiona e c'è il pericolo che perda l'uso di un arto. Magari un bambino va a fare questa cosa semplicemente perché è attratto dal colore, dalla forma di un fornello, e lo vuole prendere in mano per toccarlo e per fare le sue attività esplorative infantili, ma non deve toccare il fornello bollente. Evidentemente, se la mamma gli dice: guarda figlio mio, non mettere la mano lì sopra dopo che ho cucinato la cena, perché sennò ti fai male, non è che la mamma lo sta dicendo perché venga in tasca qualcosa a lei, ma lo sta dicendo per il bene del figlio. Cioè, se il figlio farà quella cosa che non deve fare, si farà lui del male. E così vale per tutte quante le altre cose, d'accordo? Ecco, quindi, perché Dio dà una norma? Dio dà una norma per il mio bene. E questo è vero anche quando io non mi rendo conto e non capisco che una certa norma è per il mio bene, ma mi sembrerebbe a me che il mio bene sarebbe l'esatto contrario di quella norma. Capite? Guardate, questa è una cosa assolutamente fondamentale. E capite che dietro i comandamenti c'è anche un problema di fede. Supponiamo che io mi trovi un comandamento con cui non sono d'accordo. Allora, io quando ero giovane, ve lo dico subito, così giochiamo a carte scoperte, avevo problemi con il sesto comandamento, nel senso che non ne concepivo la malizia intrinseca. Cioè, io dicevo, avevo, posso anche capire che bestemmiare sia una cosa negativa, sicuramente, posso anche capire che se mando a quel paese mio padre e mia madre è una cosa negativa, va bene, posso anche capire che se ammazzo qualcuno, se ammazzo di botte qualcuno, è una cosa negativa, o se mi faccio una canna è una cosa negativa, o se rubo è una cosa negativa. Ma io non vedo assolutamente perché sia negativo il fatto che uno gusta qualche forma di piacere fisico senza fare del male a nessuno. Cioè, io posso capire che è male lo stupro, la violenza carnale, Forse posso anche capire, anche se oggi molti lo mettono in discussione, che alcuni atti, magari atti estremi, brutti, tipo la pornografia, tipo la bestialità, tipo l'omosessualità, siano comunque cose negative. Però, se io c'ho la mia ragazza, c'ho la mia fidanzata, siamo innamorati, abbiamo intenzione di fare le cose serie, abbiamo qualche contatto intimo, ma tu mi spieghi che male c'è? Io sono consenziente, lei è consenziente, non ci facciamo del male, ma che male c'è? Ecco, d'accordo? Allora, quando uno fa questo discorso che può essere molto molto frequente oggi, no? E di fatto sta dicendo una sorta di bestemmia. Che dici Don Leonardo? Te lo dico subito che dice Don Leonardo. Cioè, tu, essere umano, hai un cervelletto piccolo e limitato. Dio, che è grande, ha un cervellone grande e infinito. Quindi, se lui dice una cosa, devi sempre ricordarti che l'ha detta un essere che si chiama Dio, quindi non Pinco Pallino. Quello che dice Dio, se è Dio ad averlo detto, non può essere messo in discussione, perché è detto da qualcuno che è molto più grande di te. Voi capite la superbia e l'arroganza che uno avrebbe, no? Dice, ma io non me ne rendo conto. Allora, se non te ne rendi conto, oltre che a considerare il fatto che quella cosa l'ha detta Dio, devi anche ricordarti che Dio l'ha detta per il tuo bene. Adesso poi vedremo subito. D'accordo? Quindi non l'ha detta per lui, ma per te. Cioè, nel senso che se tu hai intimità con la tua ragazza o non c'è intimità, non è un problema del Padre Eterno, è un problema tuo. Quindi non cambia nulla a lui, cambia qualcosa a te. D'accordo? Questo è fondamentale, ragazzi. Quindi il primo passo, come dire, il primo punto su cui verificarsi quando ci si avvicina a meditare e a confrontarsi con i 10 comandamenti è questo. Io ci credo che Dio ha dato una legge buona per farci buoni e che in questa bontà consiste il segreto della nostra felicità. Torniamo un'altra volta al giovane ricco. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. E quindi allontanarsi dalla legge di Dio non è recare del male a Lui, ma farlo a noi e intorno a noi. Ora, la Sacra Scrittura, a cui dobbiamo sempre fare riferimento come a sorgente fontale, ecco, di ciò che Dio è e quindi anche della nostra conoscenza adeguata di Dio, ecco, l'anno della fede, noi per esempio qui, io quest'anno in parrocchia sto cercando di portare alla meditazione dei fedeli le lettere di San Paolo, che sono qualcosa di meraviglioso, ecco, se conosciute e ben comprese, non travisate come qualche volta è successo nel corso della storia. Allora dobbiamo confrontarci con alcune cose, no? Per esempio, il libro del Deuteronomio, Antico Testamento, si sente Dio, adesso cito, dire esattamente, quando parla della legge che aveva messo davanti al suo popolo durante il cammino dell'Esodo, sapete che il Decalogo è stato dato da Dio durante la peregrinazione del popolo di Israele nel deserto dopo l'uscita dal paese d'Egitto. Dice queste parole, dice, guarda figlio mio, adesso cito, vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Quindi capite, a fianco al bene c'è la vita, se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti, a fianco al male c'è la morte. Quindi, prosegue, poiché io oggi ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme. Attenzione, perché? Perché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore tuo Dio ti benedica nel paese che tu stai per entrare e prendere in possesso. Quindi, perché tu viva e ti moltiplichi, quindi perché tu abbia la vita eterna, ovvero perché tu sia felice e abbia la felicità. Ancora, prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione, scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo la sua voce e tenendoti unito a Lui, poiché è Lui la tua vita e la tua longevità. Tenete presente che il peccato originale, quindi la prima grande trasgressione della legge di Dio, dell'unica norma data da Dio ai nostri progenitori, è avvenuta sulla base di questa tentazione, di questo grande equivoco. Dio aveva detto: guardate, fate tutto quello che volete, meno questa cosa. Adesso non entriamo nel merito di cosa fosse. Se farete questa cosa, morirete, cioè sperimenterete la morte. Come ha fatto il tentatore a far cadere i nostri progenitori? Non gli ha detto: infischiatevi di quello che Dio ha detto e fatelo lo stesso, no? Perché così non gli avrebbero dato ascolto. Ha insinuato questo dubbio, cioè che cosa? Vi ha detto Dio che morirete, ma quando mai? Ma non è vero manco per niente, non morirete affatto, anzi, non solo morirete affatto, se fate questo sarete molto più felici, perché diventerete come Dio, conoscendo il bene e il male. Cioè Dio, in un certo senso, è geloso di voi, vi vuole tenere schiavi, vi vuole limitare e vi vuole privare di quell'autonomia grande che vi faccia simili a Lui. È questo che ha mosso i nostri progenitori a peccare. Guardate, questa canzone menzognera, questa nenia infernale, Satanasso la canta ogni volta che deve farci fare un peccato, sempre. Dice che è... Quello dice che fare questa cosa è bene per te, ma quando mai? Ma prova, no? Prova a fare il contrario, vedrai come sei contento. E noi diamo ascolto a questo, purtroppo. E questo è argomento che ci entra profondamente nel cuore. Capite che dietro ogni peccato e anche dietro ogni atto di virtù e anche dietro il nostro rapporto con la legge di Dio, c'è un problema di fede. Cioè io ci credo che Dio esiste, uno, è buono, due, e che ha dato delle leggi, delle norme per il mio bene, solo per il mio bene. Capite perché osservare la legge di Dio è anche un grande atto di culto dato al Signore? Perché osservando i comandamenti si riconoscono tutte queste cose a priori, si dà culto a Dio, si dice grazie Signore perché tu esisti, sei buono e io riconosco che quello che mi dici c'è la vita per me, anche se mi costa, anche se non lo capisco bene, anche se umanamente parlando avrei delle riserve, eccetera eccetera. Capite? Ancora, facciamo qualche altro esempio della Sacra Scrittura dove viene ampiamente attestata questa bellezza. Ecco, pensate al Salmo 18: la legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. Attenzione, gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore. Fanno gioire il cuore. E ancora prosegue più avanti: per chi li osserva è grande il profitto, grande il profitto. Quindi, le persone più felici, le persone più grandi sono quelle che sono capaci di gustare la bellezza e la gioia che viene dai comandamenti di Dio e dalla loro osservanza. E una persona è tanto più felice quanto più dentro sta questa logica, e una persona è tanto più infelice quanto più si allontana da questa logica. Pensate ancora una volta all'episodio del giovane ricco, quindi alla sua domanda delle domande, cosa devo fare per avere la vita eterna, ovvero dimmi il segreto della felicità. Gesù glielo dice, non lo ascolta, e qual è l'esito di questa cattiva scelta? Il giovane se ne andò triste perché aveva molti beni, triste. Cioè la cartina tornasole, come dire, della nostra vita di comunione o di non comunione con Dio è data dal tasso di tristezza o dal tasso di gioia. La nostra gioia, ragazzi, stare attenti alla nostra tristezza, non dipende, credetemi, dalle circostanze esterne fuori di noi. Guardate, non dipende se i tuoi genitori vanno d'accordo, se ti vogliono bene, se c'hai gli amici, se non ce l'hai, se a scuola sei bravo, se gli altri ti capiscono, se hai trovato la fidanzata, se c'hai i soldi in tasca, se c'hai la moto, se c'hai... Queste sono tutte quante realtà e situazioni periferiche. Tu puoi avere tutte quante queste cose ed essere la persona più triste del mondo. Quando io ero giovane, adesso purtroppo sto cominciando a diventare un vecchiaccio, alla venerabile età di 41 anni, con molti capelli in meno e quei pochi che sono rimasti, molti sono bianchi, quindi ci avviamo verso il declino. Ah, quando io ero, che ci avevo 18-20 anni, successe un fatto molto eclatante, di cronaca, nera. Forse adesso raccontandolo a voi neanche vi rendete conto, però casomai ve lo contestualizzo un attimo. Si suicidò il figlio di Gianni Agnelli. Cioè, Gianni Agnelli, forse l'avete sentito nominare, insomma, perché è un personaggio molto famoso in Italia, era tra gli uomini più ricchi e più potenti del mondo. D'accordo? È stato il patron della Fiat per ben oltre mezzo secolo, insomma. Quest'uomo ci ha avuto praticamente un nipote santo, Giovannino Agnelli, che è morto giovanissimo da santo, e ci ha avuto un figlio che si è buttato da una rupe, si è buttato di sotto, è morto. Allora io mi ricordo benissimo quei giorni e anche insomma un po' i mezzi di comunicazione, un po' la gente comune che si diceva: ah, si è pure buttato di sotto, che altro voleva questo? Tutto quello che c'era dalla vita, cosa altro vuoi? Che cosa mancava a questa persona? Perché ha fatto questo gesto estremo? Non è stato l'unico nel corso della storia, eh? Cosa è mancato? Mi ricordo benissimo un altro brutto fatto di cronaca, qui io ero ancora più piccolo, c'era un comico negli anni 70, si chiamava Alighiero Noschese, che lo stesso un bel giorno ha preso e si è suicidato. Sembrava apparentemente un comico, poi no? Una persona solare, contenta, lieta, faceva ridere. Cioè, una persona che giunge al suicidio, senza volerla giudicare, indubbiamente ha la morte nel cuore, è ovvio, no? Non è certamente l'immagine di una persona felice, ma anche quell'uomo era un uomo di successo, un bell'uomo, simpatico, affabile, coi soldi, con l'affermazione professionale, cos'altro vuoi dalla vita? E io ricordo che fui scosso da questi, dico, perché questi sono tristi? Perché hanno fatto questi gesti? C'è anche un pochino di autobiografia, perché io nella mia gioventù, se dovessi dire, a me è mancato assolutamente nulla. Io ho avuto ampiamente più del necessario e ampiamente il superfluo da un punto di vista economico. Avevo amici, avevo buone relazioni sentimentali con l'altro sesso, a scuola me la cavavo più che discretamente, i soldi in tasca c'erano, le moto c'erano, i divertimenti c'erano, la libertà c'era, potevo uscire, potevo rientrare, ma io non ero contento, non avevo la felicità nel cuore e mi chiedevo: ma perché? Perché non sono felice? Perché sono triste? Perché sono angosciato? Perché ho tante paure? Eccetera. L'ho capito molto dopo perché. Ecco, meditate però su questo, ragazzi, meditate, perché dietro ogni trasgressione, a ogni comandamento, c'è sempre la grande menzogna satanica. Dio non ti vuole bene dicendo di quella cosa, non è una manifestazione del suo amore per te, è una volontà limitante, cioè è una forma, come dire, per certi aspetti di odio, cioè, ma voi capite che assurdità che sarebbe? Cioè, se Dio esiste, speriamo che sia buono, e se è buono speriamo che dica cose buone. Pensate all'assurdità che se esistesse un Dio cattivo, cioè esiste Dio come mio nemico, come mio concorrente, che mi deve privare, che mi deve turbare, Capite che qualunque, una cosa importante anche, ragazzi, che volevo, vi prego, ecco, di rifletterci, quando noi facciamo delle scelte contro Dio, facciamo delle scelte irrazionali, irragionevoli, perché trasgredire un comandamento lo posso fare a due condizioni: o non credo che Dio esiste, e quindi i comandamenti si sono inventati gli uomini, e gli uomini di chiesa in particolare, ma in quel caso io sono stupido, come abbiamo visto prima, perché vado contro la dignità della mia ragione, che reclama necessariamente una spiegazione ragionevole dell'ordine del cosmo. Supposto che Dio esiste e che comandamenti gli ha dati lui, dovrei cadere comunque nell'assurdo che esiste un Dio cattivo, quindi che Dio che è buono in tutte le sue manifestazioni, perché la creazione, quindi l'essere, la vita, non sono certamente cose di per se stesse negative, diventa cattivo soltanto quando deve dare i comandamenti. Voi capite che sono delle cose assolutamente assurde. Assurde. Per questo che vi ho detto che il problema a monte è un problema di fede, e ancora più a monte è un problema di far funzionare bene il cervello. Quando qualcuno mi prende in giro, giustamente mi prende in giro pure io, che ho sempre meno capelli in testa, io gli rispondo, va bene, che uno diventi un po' più brutarello fa nulla, l'importante è che sotto la corteccia cerebrale, quindi non è importante quello che ci sta sopra la testa, è importante quello che ci sta dentro la testa, perché fino a quando il cervello speriamo che funzioni, va tutto ok, anche se c'è qualche capello in meno, non è quello il problema. È soltanto che il nostro cervelletto dobbiamo imparare a farlo funzionare, capite? Non possiamo noi agire, man mano che cresciamo, ad essere mossi in balia dei nostri istinti, a quello che mi va e a quello che non mi va, a quello che mi piace sul momento e a quello che non mi piace, dimenticando le conseguenze degli atti che noi facciamo. Lo sapete benissimo, sono alcuni peccati, poi man mano che andiamo avanti, che hanno delle conseguenze irreversibili. Una ragazzina che per un uso precoce della sessualità si fa mettere incinta e abortisce, compie un atto che certamente se si pente Dio la perdonerà, ma quell'atto è irreversibile. Cioè, quella creatura al mondo non ci sta. Quella stessa identica creatura al mondo non ci verrà mai. Non si può tornare indietro. Noi dobbiamo fare attenzione, ragazzi, perché con l'era dei computer siamo un po' troppo abituati alla reversibilità degli eventi, cioè nel senso che se io mi sbaglio a scrivere un file, a che problema c'è? Cancello, lo correggo e lo risalvo, capite? Cioè la nostra civiltà stupenda e affascinante, ipertecnologica, d'accordo, ci consente un ampio margine di reversibilità delle nostre azioni, non tutte, ma molte sono reversibili. Ma la vita reale non è così. Una ragazzina che perde la verginità l'ha persa, punto. Tu puoi farti tutte le confessioni che vuoi, puoi fare voto di castità fino al matrimonio dopo che hai fatto questa cosa, sicuramente, però la membrana femminile, che è il sigillo della verginità, non ricresce, ok? Ci sono tanti eventi, se tu fai il pazzo con la macchina e fai un incidente, ti spacchi la spina dorsale e resti su una sedia a rotelle, o vai a Lourdes e ricevi un miracolo, oppure sulla sedia a rotelle rimani a vita, capite? Quindi ci sono degli eventi che non sono reversibili, e quindi prima di prendere decisioni avventate, come succede del resto purtroppo, voi dovete sempre fare il conto, ragazzi, con un certo tasso di questo che è caratteristico dell'età giovanile, ecco, perché i giovanotti purtroppo non sono capaci come noi adulti ordinariamente, a meno che non siano molto abituati, a pensare sul medio-lungo termine, d'accordo? Quindi a dire sta attento, quello che faccio adesso avrà delle conseguenze a lungo termine, quindi attenta a quello che fai. Questo è proprio un problema di crescita, cioè la testolina, quindi la psicologia di un fanciullo e di un adolescente non è impostata in questo modo, è impostata su tutto e subito, quindi sui riscontri immediati, sui tornaconti immediati. Cioè per un adolescente è sempre vero, è meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sempre, d'accordo, che ha anche una sua logica, però un adulto sa valutare che non sempre questa è la scelta più opportuna. Quindi attenzione, ragazzi, ecco, in questa prima puntata io volevo semplicemente porre alcune basi, d'accordo? E quindi concludere poi facendo alcune domande, no? Prima che iniziamo ad affrontare il discorso dei 10 comandamenti. Ora, volevo continuare un attimo con le citazioni e concludendo un pochettino il discorso. C'è un brano che a me, di un altro salmo, il salmo 18, mi ha sempre fatto tantissima devozione, che è questa: mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Uno dei salmi in assoluto più belli e più belli che esistano, a mio parere. Quindi il cammino della legge è il cammino della vita. Ed è il cammino della gioia, non della tristezza, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Cioè, dopo che io ho trovato il Signore, io ho trovato la gioia. Ho trovato la gioia anche dopo, per non dire soprattutto dopo aver seguito la vocazione. Cioè, se uno di voi mi chiedesse, Don Leonardo, come va la vita oggi? Ce l'hai problemi? Direi, tantissimi, tanti. C'erano le sofferenze? Quante ne volete? Le prove? Quante ne volete? Le contestazioni? Le persecuzioni? I nemici? La gente che ti tratta male? Quante ne volete? Ho perso mio padre e mia madre 2 anni fa, tutti e due, quindi sono, umanamente parlando, orfano, solo, d'accordo? Ma se voi mi chiedeste, ma tu sei felice? Io ti rispondo, io non sono felice, sono l'uomo più felice dell'universo. E non cambierei un minuto del tempo che sto vivendo oggi, con tutta la vita, i primi anni, insomma, della mia giovinezza che ho passato lontano da Dio, in mezzo a una vita molto più frenetica, a molte meno sofferenze esterne, ma a tanto maggiore sofferenza interna. Cioè, fuori c'erano molti meno problemi, ma dentro c'avevo la morte nel cuore. Adesso fuori ci possono stare anche tanti problemi, ma dentro c'ho la gioia nel cuore. Ecco, pensate ancora, e concludo con questa citazione, diciamo la rassegna delle citazioni bibliche, la Madonna. Qual è la bandiera e l'istintivo della Madonna? Sapete che la Madonna, la Beatissima Vergine Maria, nel Nuovo Testamento, ahimè, ai noi, parla pochissimo, quasi nulla. Ci sono pochissime parole attribuite alla Madonna, no? Abbiamo il dialogo dell'Annunciazione, dove dice soltanto due frasi, no? All'angelo dice: ma come avverrà questo che io non conosco uomo? E poi il Fiat. Poi troviamo che parla alle nozze di Cana, lapidaria: fate quello che vi dirà. Dice qualche parolina quando ritrova Gesù nel tempio: figlio, perché ci hai fatto così? E poi però, diciamo, nel momento in cui parla di più è il momento del grande cantico mariano, che è il Magnificat. Non stare a dare retta a tutte le altre sciocchezze che dicono oggi alcuni esegeti. Il Magnificat sono parole purissime, dette, pronunciate da Maria Santissima in persona, senza ombra di dubbio, dalla prima all'ultima, virgole comprese. Allora, cosa dice il Magnificat? Il distintivo della Madonna: il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Quindi, se uno volesse dire chi è la Madonna, sapete chi è la Madonna? La Madonna è l'immagine della creatura beata. Beata in greco significa nient'altro che felice. La Madonna è la felicità fatta persona. Voi mi direte: ah, Don Leonardo, ma come? La Madonna, con tutti i dolori che ha affrontato sulla terra, c'è stata la fuga in Egitto, c'è stata, prima della fuga in Egitto, il concepimento di Gesù, il problema che rischiava di essere lapidata se avessero saputo che era incinta, e poi al Natale è dovuta andare a Betlemme, e poi non si sapeva dove partoriva, ha dovuto partorire in una squallidissima grotta, stalla di Betlemme, al freddo incredibile, in situazione di precarietà. Poi Erode si è messo a fare il matto, vuole ammazzare tutti i bambini, sono dovuti andare via in Egitto, non si sa quanti anni ci sono stati, non si sa, col timore, stare in terra straniera, lasciare la casa, cioè, poi torna a Nazareth, e poi il figlio, e poi perde San Giuseppe, che è morto prima dell'inizio della vita pubblica di Gesù, e poi Gesù comincia la sua missione, il figlio la lascia da sola, rimane da sola, sa che il figlio è perseguitato, sa che gli apostoli non lo capiscono, sa che i farisei lo maltrattano, lo perseguitano, sta sotto la croce. Poi la cosa più grande, cioè, insomma, no, la vita della Madonna è stata piena di sofferenze, è venerata, ci sono tantissimi quadri come la Madonna addolorata. Speriamo che presto venga riconosciuta dalla Chiesa come corredentrice. I redentori sono, come dire, sono uomini e donne vittime, sono campioni della sofferenza, di una sofferenza grandissima, inaudita. Come tutte le generazioni mi chiameranno beata? Com'è possibile? Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Perché la Madonna, nonostante tutte queste sofferenze di ogni tipo, soprattutto morali e spirituali e affettive che ha avuto, aveva dentro il cuore la pienezza della gioia. Da che cosa derivava? Dal fatto che non soltanto osservava tutti i 10 comandamenti, ma che in ogni istante della sua vita lei stava ininterrottamente, sempre e solo, facendo la volontà di Dio. I 10 comandamenti, come vedremo, ragazzi e ragazze carissimi, sono il primo livello, cioè diciamo che sono il livello, sono la scuola elementare, ecco, è proprio lo stretto indispensabile il poter dire io sto facendo la divina volontà. La divina volontà è sicuramente contenuta per tutti nei 10 comandamenti, però può anche andare oltre, d'accordo? Perché oltre ai comandamenti ci sono i consigli, ci sono i doveri di Stato e tante altre cose che non so se avremo poi tempo di affrontarle. Però da dove viene la gioia della Madonna? Dal fatto che faceva sempre, in tutto, solo ed esclusivamente la volontà di Dio. E la volontà di Dio al massimo grado possibile, d'accordo? Perché a volte Dio dice, senti, questo va bene, però questo andrebbe ancora meglio, e questa sarebbe proprio la cosa migliore di tutti. La Madonna stava sempre al massimo, stava sempre con la quinta inserita nella sua Ferrari testa rossa, d'accordo? Sempre, al massimo. Quindi se c'era da scegliere, cosa che mi piace di più? Quello che dà più gloria a Dio, si fa sempre quello. E questo è il segreto della sua gioia. Pensate, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Il mio spirito, l'esultanza dello spirito di Maria, non è stato qualcosa di limitato al momento del Magnificat. Sai, ha visto che Santa Elisabetta aveva riconosciuto che c'era il Messia dentro il suo grembo, che San Giovanni Battista che si era mosso nel grembo della cugina era stato presantificato, e Santa Elisabetta le ha rivolto quella grande lode, a che debbo che la madre del mio Signore venga a me, beata te che hai creduto all'adempimento delle parole del Signore, allora lo spirito di Maria ha esultato, no, lo spirito di Maria ha esultato, ma lo spirito di Maria stava in uno stato di esultanza ininterrotta. Che cos'è l'esultanza? Avete visto quando i calciatori, adesso questo è un esempio, quando fanno gol che esultano, cioè che cominciano, che alzano il pugno, insomma, che fanno i caroselli, le cose, le capriole, perché c'è una gioia, ovviamente non è paragonabile, quella è una gioia effimera, una gioia bassa, no? Che però esplode, ecco, ok? Pensate che la Madonna era un'esplosione continua, ininterrotta di gioia. Non immaginiamo mai la Madonna con il muso lungo e con come dire, uno sguardo torvo, un modo di fare triste o cose di questo genere. Questa non è la Madonna, questa qui, eh? Questa è una caricatura abbastanza bieca di ciò che la Madonna è. La Madonna è il mio spirito, esulta in Dio mio Salvatore. E tutte le generazioni mi chiameranno beate. Ecco. E perché? Perché è stata la perfetta obbediente. E la sola che ha compiuto in tutto, sempre e perfettamente, tutti i voleri dell'Altissimo. Allora, attenzione ragazzi, ultimo punto e poi concludo. Quindi quando ci mettiamo davanti alla legge di Dio, non dobbiamo neanche fare questo discorso, vabbè, facciamo sto sacrificio, leviamoci sto dente, guarda, i comandamenti mi stanno stretti, però li osservo, perché dopo Dio mi ricompenserà. Se trasgredisco i comandamenti, forse Dio un giorno mi punirà, mi manda all'inferno. Invece, ha parlato di oggi, non ci crede quasi più nessuno, eh? Cioè, sarebbe già qualcosa dire questo qui, molto poco, ma almeno qualcosa. Dice, invece, se li osservo, andrò, mi salvo dall'inferno e andrò in paradiso. Questo ha del vero, questo discorso, ragazzi, in parte, ma è davvero molto, molto poco, ed è anche in un certo senso un po' limitato e limitante. Perché se tu osservi i comandamenti, non è che soltanto tra 100 anni andrai in paradiso, non è solo questo, ma si tratta di stare meglio qui, cioè di avere la felicità qui, cioè Certo, la vita terrena presenta tante tribolazioni, d'accordo, però nel cuore e nella gioia del cuore noi abbiamo l'anticipo della vita eterna, proporzionale a quanto rimaniamo nella volontà di Dio. Quindi prima di iniziare questo discorso, ragazzi, chiediamoci, Dio esiste? Ci credo? Due. Dio è buono? Ci credo? Se Dio è buono, sono convinto che fa le cose soltanto per il mio bene e che quindi, se io gli obbedisco, non faccio del bene a lui, ma faccio del bene a me e che questo bene mi ritorna non soltanto con la futura ricompensa, ma anche con una vita bella e degna di essere vissuta fin da qui? Ecco, queste sono tutte le altre domande che precedono, come dire, la meditazione dei singoli comandamenti, perché da come rispondo a queste domande dipenderà anche l'atteggiamento di apertura e di, come dire, messa in pratica della legge di Dio, quando anche risultasse un pochino stretta apparentemente o un pochino scomoda. Riprenderemo, a Dio piacendo, questo discorso la prossima settimana. Io vi benedico tutti, vi auguro una buona settimana, a risentirci se volete la settimana prossima. Ave Maria.